Partecipare alla Santa Messa è la preghiera più alta, più divina che possiamo fare, perché mentre nelle altre preghiere siamo noi che ci rivolgiamo a Dio, nella Messa è Gesù che si rivolge a Dio, è la Chiesa che partecipa della preghiera di Gesù. Quindi, cercate di capirmi bene, anche se uno fosse distratto durante la Messa, la preghiera vale ugualmente perché è la Chiesa, è Gesù che prega e sta bene. Però immaginate che bello se uno partecipando alla messa la gusta, perché si è preparato prima leggendo i testi, meditandoli, gustandoli. È quello che io vi invito a fare. Forse non sarà possibile farlo ogni volta, ma qualche volta sì, vi pare? E io credo che dobbiamo imparare questi piccoli segreti. Leggere attraverso il messalino quotidiano, leggere la liturgia del giorno prima o magari la sera stessa precedente la messa del giorno dopo, e gustarla. Io ho la fortuna di poterlo fare e il gusto di poterlo fare, e ad esempio trovavo all'ingresso queste parole belle: non temere, sono con te, dice il Signore, non smarrirti, io sono il tuo Dio. E allora mi fermavo e dicevo: Ambrogio, coraggio, il Signore ti dice queste parole, fermati, gustale, falle tue, non aver paura, Ambrogio, perché? Perché io sono con te, dice Dio. Non smarrirti, non perderti. Quante volte noi ci perdiamo nelle situazioni, no? Io sono il tuo Dio, ti do la forza, vengo in tuo aiuto, la mia destra vittoriosa ti sostiene. Non so se riesco a spiegarmi, ma ciascuno di voi può gustare la bellezza di queste parole. Poi va avanti e trova il Salmo, che qui è il Salmo 78. Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia. La parola misericordia è una parola intensissima, può essere letta in tante maniere. A me piace questa lettura, misericordare, misericordia. Cioè dare il cuore al misero. La misericordia di Gesù è questo, che lui dà il suo cuore al misero. Per questo l'immagine di Suor Faustina di Gesù misericordioso mostra che dal cuore di Gesù escono questi due fiotti di luce, luce color rossa del sangue e luce bianca della grazia di Dio. Misericordare. E poi va avanti e si può leggere tutto il Salmo: non imputare a noi le nostre colpe, aiutaci, e così via. Ma vi assicuro che se avete in mano anche, io lo faccio, se avete in mano anche un abiro o un evidenziatore e sottolineate, queste parole vi risaltano di più. Però mi è capitato che ieri sera io stavo preparandomi a questa messa, meditando queste cose, e ho ricevuto un po' di telefonate veramente pesanti. Tanta gente ricorre al sacerdote e ancor di più all'esorcista per chiedere benedizioni. Quanta sofferenza c'è in giro, e sapete qual è la sofferenza più grande? Quella di una mamma per i propri figli che non stanno bene. Il mondo è pieno di mamme che patiscono, ma starei qui a raccontarvi perché ne ricevo di telefonate ogni giorno, e per ciascuna una benedizione. Dico: Signore, io ho gustato queste parole, che tu vieni in mio soccorso, non temere, Ambrogio, ma queste persone, Signore, non riescono a gustare queste parole. perché è già molto se riescono a non disperarsi, ma non sanno da quale parte girarsi e durano magari da anni, da anni, da anni. E allora dico, Signore, sperimento la bellezza della meditazione per me, ma sperimento anche la bellezza della preghiera per gli altri. E la mia preghiera a Gesù si fa accorata, si fa bene, capitemi bene, si fa benevolmente rimproverante a Gesù e a Maria e dire: ma Signore o Madonna, sono anni che questi ti pregano, non sanno più da che parte fare, coraggio, ti costa tanto fare qualche miracolo. Parlo da stolto, però dico: Signore, mi viene da ridere, dico: Signore, ma dammi la capacità di fare qualche miracolo, no? E poi dico: no, per piacere, no, se no la mia superbia arriverebbe fino al cielo. Dagli al prete del paese vicino di fare miracoli, così che i miracoli avvengono e io non mi insuperbisco. Parlo stoltamente, amici, ma parlo così perché senti fortemente la tristezza, il dolore, la fatica, la quasi disperazione di tante famiglie. E allora diciamolo a Gesù che offre ancora la sua vita in questa messa, diciamolo alla Madonna che è presente a ogni sacrificio eucaristico, no, diciamo: Gesù, Maria, consolate, guarite e se volete, se potete, fate qualche miracolo a questa povera gente.